c'era qualcuno, sono andato prima ad andare a Magna a vedere se c'era qualcuno, poi puoi riattaccarmi, ma ho fatto un giro dei canali però. Un omocchiorio. Ehi, vale, stanno tutti mangiando. Sempre lì il problema. Vabbè, che ne so, 8:20 già ci sono, sì. Neanche guardato l'orario. Sì, sono le 8:20. 8:20. Ehi, altri 10 minuti, dai, e poi preparo. E tu, come stai combinando? Nulla, stavo ascoltando un po' il 20:20, c'è un po' di propagazione, e basta. E nulla, ho fatto anch'io un giro di canali, c'è un importante, sicuramente, di prova sul 14, basta, non c'è altro. Io ho acceso adesso direttamente sul 12, ho preso mia figlia dall'amica e poi sono rientrato. E niente, intanto la sera accendo, però sento sempre portanti mute. Cos'è? Ti ha abbandonato tanto? Io poi un po' di giorni fa, no, cosa un po' di giorni fa, quando era? 3-4 giorni fa, e non di più. Io ero andato all'industriale di Muro per caricare una cucina per piazzare, l'ho trovato lì a Capri 2 e non era tanto contento. Ne fregava più niente, cioè non c'è più nulla, smontato e messo tutto da una parte. No, non mi manco la motivazione, se ti fidi non. Come mi sono avvicinato per salutarlo, sembrava proprio che dava qualche fastidio, allora sono preso i piedi e me ne sono andato. Vabbè, e cosa è successo anche a lui? Non so cosa dirti, Antonio, io sono fuori da ogni discorso, da mai. Faccio del chiacchiere qua e basta. Quando c'è qualcuno, sono altrimenti me lo vado da altre parti, che te devo dire. Comunque, linea di massima c'è sempre gente qua sul canale 12 o sul canale 10, come sempre. Alterniamo un po', o sul 12 o sul 10. Sì, se no, pazienza, tocca, aspetta la... Ecco. Vale, almeno in quella. No, però magari una parte o l'altra è sempre accesa, già non lo mollo. No, non è che sono rimasto così male, ma hai detto un po' contento, e beh Antonio, mandami a fanculo, però col sorriso, invece no, era proprio di una tristezza inchiapponato, ma che te l'ha popato, però no, non voleva neanche se ti fida salutarlo e vabbè. Comunque mi ha detto già ci vediamo e me ne sono andato, non era proprio così, strano, per come l'ho conosciuto io. È una persona abbastanza allegra, quindi ci ha smontato tutto, non gliene frega più un cazzo, in poche parole. E basta, e poi me ne sono andato, tutto lì. Mi chiedo anche da un po', anche qui sento a sentirlo. Va bene, facciamo un po' di break, un po' di giorni rimaneva, anche qualche settimana senza entrare, poi entravo. E poi entravo, adesso mi sa che sembra che abbia, non gliene frega più niente, non c'ho la motivazione, non so quello che ti dico. L'antenna c'è sempre. Poi speriamo che si riprenda, sarà qualche situazione strana, che si possa risolvere, speriamo che ritorni il buon umore per riprendere. Non so che dirti a te, io l'ho visto, ho registrato vecchio, l'ho visto quando è, non mi ricordo, a Sassari, mi ha detto lo stesso che aveva intenzione di togliere tutto, anzi sinceramente mi ha detto se le vendevo qualcosa, però l'ho detto che no. Non c'ho tempo e no, non voglio fare intermediario a nessuno, poi se c'è qualcosa che va male la colpa è la tua, no? Tua. Mi dispiace, arrangiati. L'unica cosa che ho detto, 4:40, lo usalo, lo vendilo, perché se lo tiri fermo ce lo butti, soprattutto quello, che è una radio che per carità è Dio. Io infatti ce l'ho sempre accesa perché rischia sempre che poi si incasini, capito? Avanti, buonasera a tutti, il Grode da questa parte. Claudio, ti volevo chiedere un'informazione, guarda un attimino come sto uscendo, come ti sembra come modulazione? Beh, va bene, radio 5, normale, perfetta. Normale cosa intendi? Normale, normale buona? Certo, normale intendo 5 perfetta, senza amplificazione, con la sua tonalità normale. Tonalità da K o normale, normale? Di K non sento niente io. K non senti niente. Sto provando con la radio nuova, dai. Certo, se te la faccio sentire io, e peggio di questa, ci abbiamo lavorato Fabrizio tantissimo per poterla far uscire, ci sono un bel di regolazioni da fare. Un bel, perché quello è un semi digitale, quindi lo sai, un bel di regolazioni da fare. Io intanto ti posso dire che mi devi dire solo quello, aspetta gli occhiali, così ti attiva un input e sicuramente aumenta moltissimo la radio. Allora in alto, dove c'è il power di accensione, c'è un tastino a fianco all'IP, booster, chiamalo come vuoi. Ce l'hai inserito o disinserito? Disinserito. Inserisci quello. Guarda un attimino, hola, 1, 2, 3, prova, sto parlando a una distanza di 30 centimetri. Già si è regolato, quindi sappi che quello lì è praticamente il microprocessore che comanda la porta DRM, quindi senti il processore. Adesso sei che vediamo, prima non lo vedi. Dammi un altro input, dimmi come c'è il mic, praticamente dovrebbe essere quello nero, mi pare, se non vado errando, perché l'altro è il power. Come ce l'hai quello? Prima manopola a sinistra, mic tutta canna è a 10. Stai dicendo che c'è scritto processore. Ah no, il mic, aspetta, scusami, il mic è a 4. Sappi che il torch in AM non funziona su quella radio, il processore lì è solo per la banda laterale, l'unico processore che tu hai è quello che hai inserito, che praticamente ti dà la possibilità di aumentare il mic gain, quindi fa da microprocessore. Ce l'hai a 4 addirittura, minchia. Vabbè, potresti anche lasciarlo così, non so, mettilo a 5, prova un pochino, vediamo, scusa un attimo Antonio. No, continuiamo, ti vado a mania, dai, nel caso ci sentiamo dopo. Ok Antonio, a dopo allora. Prova a metterlo a 5. Ho staccato il approach perché l'avevo messo, non so per quale motivo, e pensando che fosse in processore anche per qua. E adesso l'ho messo a 5 per quanto riguarda il mic e il power è a 4. Sta già attrappando, quindi dovete rimettere a 4 8. La posizione sua è a 4 e con un'occhiata su in alto dove c'hai il praticamente il meter del display del dove smettere, vedi un po' cosa ti sta segnando, se è positivo, negativo, e te lo regoli da lì. No, mi sembra positivo, c'ha solo picchi positivi. Se vuoi provo a aumentare un attimino. Guarda così si sta strappando. Leggermente, guarda, posizione bella con il bot inserito, quello che è inserito praticamente è la posizione bella è a 4, è già torna alla grande. Se tu esami l'MC60 controllati che sei in posizione in, non out, sotto, e l'impedenza è sempre a 50, non a 500, quello è molto importante. Aspetta, ripeti un attimino perché mi sono perso. Allora, mi stavi dicendo? Buonasera. Eugenio, un attimino, ti lancio subito. Allora, nel microfono, come sai sempre, no? La posizione dell'impedenza è sempre a 50, non a 500, e il microfono deve essere in, quindi sotto, out è chiuso, in è aperto, e quello lì è tutto a posto. Affermativo, tutto come hai detto. Aspetta, per me adesso vai molto bene, per me sei già al 99,9%, si sente una bella spinta di radio, perché quella radio lì sappi che il torch non funziona, quindi dove c'è scritto approach, il Moni funziona, ti metti le cuffie e inserisci il tattino Moni e ti puoi ascoltare, a differenza di avere altre radio, regolandoti il volume con la lavorazione del Moni, che dovrebbe essere, mi pare, quella grigia, se non vado errando, quella nera, comunque prova il tastino. E l'altro che hai a fianco, ho scritto mic power, quello funziona tutto, però la posizione è a 4, il power te lo metti come ti pare piace a te, però sa ben sentite Eugenio, gli rilanciamo subito il mic. Sentimi un attimino, ti provo a fare un cambio di microfono, metto l'MV più 5 e mi dici come lo sta pilotando, dai. E poi non provo a mettere l'MV più 5 su quella radio. Occhio, è alimentato dalla radio o c'ha le batterie? Compa, è alimentato dalla radio, ma questo già da tempo. Non gli può creare, non gli può dare corrente più di quanto non gliene stia dando la radio. Ok, già, perché abbiamo avuto una radio che è impazzita proprio per un cambio di microfono. Ok, fammelo sentire, ma nel frattempo rilancio Eugenio, avanti. Buonasera a tutti, sono qua. E allora, che si dice, questo microfono? Chi è che non l'ho riconosciuto con questa bella radio dalle mie parti? Antonio Grobbe sta provando una nuova radio. Sì, abbiamo fatto due accorgimenti interessanti, adesso va molto bene. Pronto? Vedi che non va bene? Bugattivo, perché non va bene, tutto a casino, tutto a rumori. Quella radio lì non è come il 140, il digitale non riceve mai un microfono che non sia della sua marca, Occhio, per quello che ho detto. Bello, però io l'ascoltavo bene, non va bene, non con questo ultimo passaggio, però quell'altro microfono era bello, e anche il segnale ha aumentato tanto, ho abituato a sentirlo, Santiago 3, mi arriva a 9, pieno. No, un attimino, adesso, grazie Eugenio. Adesso dovremmo essere ritornati come prima. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Non sei mai uscito bene come adesso, veramente. L'unica cosa da fare è inserire quel pattino, la regolazione 4, MC60 e non toccese. Quel microfono usalo per qualche baracchino perché lì non va bene. Sul digitale no, microfoni del genere è difficile che si adattino. L'unica cosa ti dico, per quanto riguarda la ricezione, tu la metti in fast, mid o low, per quanto riguarda dovrebbe stare in mid. Sì, per la MC mid, poi accorgitene tu, o mid o fast, ma io la tenevo sempre mid, perché te ne accorgi quando poi ricevi, se il segnale torna indietro subito te la regoli tu. No, va bene fast, va bene veloce, perché sennò mi perdo una metà del passaggio di Eugenio che rilancio. Ciao Eugenio, ben sentito. Avanti, riprendi il microfono, dai. Non c'è problema, tu figurati. No, a me piace ascoltare le prove così, perché così faccio una cultura anch'io. Comunque io ti sento alla grande, benissimo, abituato a sentirti in mezzo al QRM perché forse avevi problemi. Adesso proprio arrivi alla grande, ti sento benissimo alla grande. Ti ringrazio di questo sincero entusiasmo. Questo qua però è l'altro QTH da cui sicuramente ho un'apertura maggiore per Papatango e quindi riesco, diciamo, a uscire al meglio. Poi questa qua è una radio seria e ha quantomeno un accordatore entro contenuto, per cui riesce a sviluppare la potenza al massimo, diciamo, dai. Ah, ecco, ho capito. Comunque, guarda, veramente... Bene, alla grande, bella, a me piace tantissimo questa radio. Sono contento, ti ringrazio. Claudio, riprendi un attimino, se hai qualcos'altro da dirmi, Cla. Beh, lo sai che non è che accetto, è bene accetto. L'unica NM, poi lì gli accorgimenti quando vai in banda, te li fai tu, se magari vuoi sentirti processore fare qualche prova, quelle regolazioni sono più facili da fare perché te le regoli tu, ma per la M spendila veramente, vai benissimo con quel fattino inserito che ti ho detto, perché inizialmente era praticamente da microfono normale, adesso si sente proprio la bella modulazione del K. Sì, ottimo, sì, ma quelle robe lì vanno molto bene. Io la M lo uso poco, ma in banda va molto bene. Sì, oggi anch'io lo ascolto benissimo, nonostante siamo molto vicini, il segnale è tutto il tuo, sempre quella bomboletta 9.40 alla grande, e la radio è perfetta, non hai niente da che toccare a tu. Ecco, l'unica cosa che ti volevo chiedere, c'è il fine per quanto riguarda la manopola del WFO inserito, come le si toglie? la mappa è vuota, fine. Allora io ce l'ho spento, vediamo che lo accendo, fine. E cosa può fare nel display? Oh, in breve ti fa fare invece di kilohertz, invece di megahertz ti fa cambiare kilohertz, però i decimali, cioè i decimali, sì, le unità anzi. Quindi di conseguenza prima di cambiare con l'UFO ci metti un po' di tempo, gli devo togliere appunto la possibilità di, cioè l'avanzamento un attimino più rapido. Ah, c'è scritto, cioè praticamente c'è scritto kilohertz, c'è la lucettina accesa. Esatto, cioè la lucettina con scritto fine. Cos'è che non mi è mai capitato? Sotto, dove c'è il nome app? Allora, megahertz. Fine. Quanto? Non ne vedono, vedo. Fine. No. Nine. Lock, fritte, track, fritte. Mettere il tastino inserito quello kilohertz a vedere o megahertz. Tra l'altro c'ho due lucette verdi accese al centro dei tasti di destra. Vedi cosa c'è scritto? Quali tasti sono? Ora c'hai un AIR che è quello dell'accordatore, attitudine, cioè un AIR è quando schiacci TTT, attitudine è quando si dice l'accordatore, hai piccolo lì c'hai. No, negativo, stiamo parlando, in breve, avanza troppo lentamente la frequenza quando giro il VFO. Come faccio a farla avanzare in maniera più veloce? Come fa a farla avanzare in maniera più veloce? Allora, io voglio capire qua, il mio, vediamo, inserendo kilohertz, ed è uguale. C'è qualche funzione inserita che qua io non la vedo, però questo fine non capisco cosa sia. Ma che luce c'è accesa? Luce? Qualcosa del genere? C'è luce, non ce n'è qua accesa. Nella tastiera delle funzioni cosa c'è acceso? UFO A o UFO B? Esatto, allora UFO B e ci sono tutte e due accese le lucettine verdi. Perfetto, quello ce l'ho anche io, poi se ti sposti vuoi fare un attimo, ce l'ho le altre. Però questo fine. Allora, sai cosa è questo fine? È il numero 8 della tastiera digitale. Cappa, adesso l'ho tolto. È cambiato qualcosa? A cosa serve quello lì? Per l'avanzamento in maniera dei decimali, più bassa? Esatto. La correzione ottimale del VFO, soprattutto quando vai praticamente in DX, che hai bisogno dei decimali sullo 00, sullo 01, allora inserisci quello. L'hai tolto quello lì, con le altre luci c'è accese. Vabbè, non accende luci se non nel display. No, adesso va benissimo, ho provato ad avanzare e avanza velocemente. In breve tu puoi fare la sintonia fine tramite quel pulsante lì e tramite il RIT, che poi è un po' come ce l'aveva il 140, capito? No, tutto bene, adesso si accende la ventola, non so come stia andando, guarda un po'. Perfetto, proprio perfetto. L'attenuatore sai qual è? In alto, sempre a fianco, dove c'è scritto IP, quello è l'attenuatore. Invece full cosa significa? Quello è la sezione del box. Il box, una volta che si dice il box, hai il semi o il full, il diretto oppure mentre parli, un minimo e un massimo praticamente, ma però quello fa parte della parte del box. Quello che c'è a fianco a te è il dim, già l'hai visto, ti abbassa e ti aumenta la luce del display. Non l'ho visto, aspetta, dov'è il dim? Non lo vedo. Accende la radio. Ah sì, K. Affermativo, sì, dim diminuisce leggermente. Là. Poi io vedo che c'ho acceso un 12K, ma quello credo che sia un filtro, no? Sì, esatto. Allora, vediamo, per darti un input io metto in memoria, vediamo. anche filtri e ciò. Ecco, sono sul canale 12, aspetta che mi sposto, metto sull'1, sono dentro. Allora, filtro, sì, 435, 12K sul ricevitore, sì, per l'AM 12K va bene. Non teniamo in parcheggio Eugenio, Eugenio riprendi. No, adesso va qui, io mi sto ascoltando e sto guardando un po' il mio qua che non conosco ancora, praticamente. Sto schiacciando qualcosa nel mio per vedere un po' le funzioni. E prendi a tuo, vai tranquillo, non c'è problema. Scappa, il tuo perché che cos'è? Che cosa c'hai come apparato? Io ho un Galaxy Uranus. Scappa di Roger. Non conosco la tipologia, però sicuramente deve essere un buon apparato. Ma dove c'è Gianni, non sei sentito? Gianni doppio. K. Non lo so. Non. Sono stato molto tardi oggi. Non ho pronto la cena. Mi stavo curando la moto, sto iniziando a mettere in funzione la moto. Però ci vuole la batteria. A proposito, tu sei pratico, mi serve una batteria per moto, non so da quanto sia, non è grande. Dove si può comprare? A Porto Torres, vieni da me, ti accompagno io. Dove la cosa, come si chiama? È quello vicino a Porto, la Virginia. No, negativo. Allora, hai visto per girare, a Porto Torres per girare a Gianpaolo? Invece di girare a Gianpaolo poi 10 metri più avanti e c'è l'elettrauto, ce li ha pronti lì disponibili. Invece di girare a Gianpaolo, proprio c'è la farmacia a sinistra, così è. Esatto, dove c'è la farmacia, invece di entrare dove c'è la farmacia vai dritto, continui per via 6, di fronte alla ESSO rimane, praticamente di fronte alla ESSO, c'è un elettrauto e ci rimane pronti lì disponibili. La Baffone, non c'è più quello. Baffone? No, Giuseppe lui. Giuseppe lui, vabbè, mi va, Giuseppe mi va a seguire molto. Ha attaccato al circolo, va. Bravissimo, esattamente, ce li ha lì pronte e consegna, perché di solito le batterie non sono tutti che ce li hanno per moto, disponibili, lui ce li ha proprio lì, disponibili. Grazie, di noi italiani. Ma non so di cosa tu stia parlando, di che moto stia parlando, sinceramente. E di uno scooter, cos'è? Ah, perché è l'orticaria, no, non lo so quanto prendano, per 30 euro, credo. Con quel motocarro che c'hai, non stai parlando di uno scrittore, che stai parlando del T-Max, fa bravo. Ah, che brutto, il T-Max, ascolta una cosa, tienilo in garage che domani fa sole, non so mai che squagli con i raggi solari. Ma domani gli paga tu, ti bacio il job, non vedi che ti bacio il job, ho visto il motocarro, ho visto il trattore, vai. Ma non ti retti, io parlo 100 all'ora, ma lo benissimo, uno scooterino di quelli da trattato, ma bravo, non senti a questo, con questo Castor. Con questo Custom? Sì, come ti chiama? Custom, come ti chiama? Custom è una bella moto, vabbè, io sono più per le moto da strada, devo dire la verità. Il Custom è una via di mezzo fra un chopper e comunque una moto molto cromata, un po' particolare, un po' pesantina come moto, dai. È la classica moto che fa il rumore di scoppiettante. Quelli che fanno casino deve essere Eugenio. La mia non è un Custom, la mia è una Harley. Per esattezza. E come ti dà già bucato, sicuro accelerate a tirare molto al fuoco questa cosa. Aspetta. Allora, se c'hai un Harley, è come se stiamo parlando delle Ferrari, delle moto. Quindi, tanto di cappello. Allora, io ne ho due. Non so se conosci i modelli. Ho un Road King e un Lightning, che oramai è un chopper stile americano. Come lo trovo, ti ho accelerato vicino di una smoto una cosa. Allora, tieniti lontano, Flavio, già vuoi ti dica. però cos'è? Io ho sentito una battuta che era quando una persona con uno scooter si considera un motociclista, è come dire che uno che si fa un bidet è un subacqueo. Ma io ho a casa, quindi lui siccome non mi ha mai visto qua notte, io invece lui sì. Quando vado a mettere la cosa sopra, quello che diviso e che si montava il garaggio che va. Di almeno 70 cm in calcestruzzo su cui poter piazzare di tutto, ma sai cosa vuol dire di tutto? Ma intanto mi scatteno, mi fa piacere se mi consenti di darti una mano lì, lì si fa un bel lavoro, si monta la Mantova, poi un bel di polo con la caruccolina sotto la Mantova, senza fare molte grandi cose. Un bel lavoro di chiave, pari ti ho detto, ne abbiamo quanti ne voi, non ci sono problemi, anche di buone dimensioni. Quindi, quando si pronto un fischio, e a me fa solo piacere fare questi lavori. Anch'io devo ultimare, ma io già sono già pronto, quindi ci spengo l'8.50, intanto le cose ti le ho dette. E va bene, quando sei pronto mi fai un fischio, caffè. Guarda, lì facciamo così, importante che ci sia la graviglia, poi pali relativo che ci siano. Fatto sta, facciamo giornata dove piazziamo un paio di antenne, dopodiché ci facciamo di greffa una bella arrostita. E beh, se lì c'è posto alla grande, non problema. L'unico problema lì è stare attenti alla ringhiera una volta che ci cuociamo, perché è un attimo e sono... Mi sembra che sia il quinto piano. sono buoni buoni una 17 metri di volo. Come lì, ci vediamo praticamente. Grande, alla grande. E tu immaginati lo slargo di Largo Budapest. Hai presente dove c'era la circoscrizione prima? Quindi praticamente di fronte a Forchetto, vicino a Forchetto. Negativo, è più all'entrata di Sassari. Se tu guardi a un certo punto entrando in via Budapest, cioè dalla 131, ti trovi la facoltà di veterinaria sulla destra, dopodiché continui ad andare avanti e la strada a un certo punto si sdoppia, per cui puoi salire e andare su una strada parallela che sta sulla parte destra, dove alla fine c'è un negozio anche di caccia e pesca. Lì una delle traverse è Largo Budapest, guarda che facevano prima le carte d'identità nella circoscrizione, facevano anche tutta una serie di documenti, c'è anche una, mi sembra, una ditta di spedizioni, è uno di quei palazzi lì, ma l'ultimo piano, guarda, è una favola, lo Zugu Baghendi un terno, però ne vale la pena. Ho capito, c'è vicino la Sony, dove riparano i telefoni, i televisori Sony. Cattivo, lascia stare la Sony, per carità, lascia stare la Sony. E diciamo che un attimino prima di arrivare proprio a quei giardinetti lì, che quella lì diventa da Largo Budapest, cioè da Largo Budapest diventa, non mi ricordo, mi sembra via Londra. Comunque sì, è l'entrata di Sassari, più o meno, è l'entrata di via l'Italia. Affermativo. E lì i palazzi sono, in quel punto lì sono molto molto alti, quindi riesce ad avere una visione a 360 gradi, è ottimale, proprio aperto a 360. Stiamo modulando la via adesso, no? No, negativo, io non sto modulando, io sto modulando la via Rockefeller e non sono neanche in condizioni ottimali, aspetta, sto morendo. Ottimali perché l'antenna non è abbastanza alta come vorrei. Ah, ho capito. Sì, vabbè, tanto qua già arrivi alla grande, è come. Va bene signori, dai, è giunta per me l'ora di muovere la mandibola. Ci sentiamo magari più tardi. Ciao a tutti. E per noi, ciao Ege. Dai, grazie dell'info comunque. Poi qualche giorno già ci vediamo, ci facciamo una pedalata assieme, fare qualche bombona, a voi già mi piace uscire molto a me. Ho deciso di no, ributtarmi nella mischia, mi piace troppo. Ok, ciao, buona cena, buon tutto, anche per tutti. Ciao, ciao Eugenio, grazie per i controlli e ci sentiamo le prossime, buona carica, se coincide ci sentiamo anche più tardi. Oh, là, ti volevo dire, ma è passata una moto adesso, ho sentito il classico rumore di alternata del motorino, lì cosa bisogna utilizzare, NB1 e NB2? Sì, di solito inserisci l'NB1, l'NB2 è troppo forte, ti smetta molto la modulazione perché sai, in quella radio c'ha tutti i filtri e non è una radio via da niente. Arrivo. Quindi inserisci l'NB1 e vedi come si comporta. Brecco. Ti ha registrato il brecco, me l'ha completamente annullato, sì, poi c'è la regolazione anche dell'NB, ho messo a 8, c'è NB2 a 5, NB1 è a 8, però NB2 non è inserito, già mi hanno annullato i disturbi. Registrato il break, avanti con la buonasera, se non sbaglio Sandro. È positivo, ciao Antonio, ciao Claudio. A Pepe, ok, a posto, come sto uscendo? Stai uscendo come Gigi Vulcano, così, a grandi spanne, sei strano oggi Sandro. Aspetta un attimino per riprendere, mi hanno già chiamato due volte, si è registrato anche un altro break. Ok, tanto sì, lascia l'NB1 inserito e va bene, perché poi in automatico si riprende lui il filtro. Quindi va benissimo, regolazione così e basta, ok, ottimo. Dai, ti saluto, vado a cenare, ciao anche a Gigi e buonasera a tutti. Avanti break. Buonasera a tutti, Gianni da Torino. Ciao Gianni, ben sentito, ciao Claudio, buona carica batterie. Facciamo il giro, iniziare da Gianni, per il finalino per Claudio, dopodiché riprende Gianni. Avanti Gigi. Passerà. E chi c'ha della giù? Ciao Gianni. Ciao Claudio, non No, già, stai leggermente, mi sembra strappando. prova a venire avanti un attimino. Scusami Gigi, avanti già. Buona, vedere. Ti sento strappato, sei ancora Claudio in linea. Claudio, lo stai sentendo? No, guarda, bene, tu allora c'hai il linemino troppo alto, abbassalo anche. Prova, ti prova già. Guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cioè, sa due strisce questo sparviero. Oh, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, se non ci fosse ci sarebbe meglio. Senti strappato. Sì, è una questione di fissa, è come una radio, non è 140. Ciao, un abbraccio a tutti, a presto, ciao. Antu, hai restato quella cosa là? Negativo, non ho copiato il passaggio, scusami, ero distratto, rivieni avanti. Ho detto, hai restato l'apparecchio nuovo. Zappa di Roger, come ti sembra? Ma è abbastanza buona. Prova a vedere, fa un passaggio lungo. 1, 2, 3, prova. Forse c'è troppo microfono, non lo so, come mi stai sentendo? Guarda un po', perché mi sembra di sentire un po' friggere. Ah, non so come fare, ho compresso la radio. Adesso è scaldato, evidentemente, si è un attimino un po' di potenza eccessiva. Guarda un attimino così. Ola, 1, 2, 3, prova. Ottimo per la truppa, così va bene. Ciao Gigino Vulcano, avanti. Buonasera a tutti, la stiamo provando questa radio, non so se è buona, se è cupa, se c'è male, la stiamo solo provando. Ma fa un passaggio lungo. Positivo, il microfono normale, tutto normale, e volevo capire se era cupa o c'è qualcosa che non va. No Gigi, non è cupa per niente. È corposa ma non cupa, vero Anto, confermi? Conferma, ottima modulazione vulcanica, stai andando più che bene Gigi, lasciala così perché è chiara, frizzante requaro, ottima. Positivo, te l'avevo qua e l'ho mandato a farmelo mettere a posto, l'ho mandato la zona di Cagliari all'ingrediente, me l'ho ritirato oggi. Ma qual è quello grande Gigi? No, ma di quella famiglia piccolo però, ce l'avevo, non so neanche che cosa, è un super, tipo un tornado, una cosa del genere. Ah, di quelli, diciamo, la macchina, l'autovettura, ho capito. Auguri a tutti. No, non è l'autovettura, si potrebbe mettere, però è grande come un 8001, come un brutto M. Capito. Faccio capito. È la più da camion che l'autovettura. Antonio Grosso, auguri. Cappa, ti ringrazio e tocco la parte tua alla radio un attimino. A farla buona, dai. Ma ci voleva per tutta una serie di motivi, perché per fare un certo tipo di attività è normale che devi avere qualcosa di superiore, per quanto poi alla fine se rincorri sempre la tecnologia sei migliore che non ti fermi mai, però ci tenevo e poi credo di averla presa assolutamente da una persona che non merita fiducia, ma di più che fiducia, quindi non c'è problema. Tranquillo. Può essere, guarda, la più perfetta della perfetta. Già ci tiene, poi Massimiliano è una persona che ci tiene molto a queste cose, le coccola. Assolutamente, perché guarda, ti dico la verità, io me l'aspettavo nuova la radio, ma non così nuova, cioè è davvero perfetta. Meglio così, Anto, quali sono le grosse soddisfazioni? Che quando paghi hai la cosa come si deve. Infatti poi alla fine, quando le cose sono troppo perfette, ti metti a guardare i particolari, proprio il peletto, e devo dire la verità, è difficile trovare la cosa, perché stiamo parlando sempre di radio che hanno comunque una certa età. E ti dico la verità, perfetto, se proprio mi voglio attaccare a una cosa, guarda, non potrei se non una vite che è leggermente sbucciata, ma che a cui metterò rimedio con una passatina di catavetro, ma stiamo parlando proprio del pelo del buco del culo dell'uovo. per avvicinare, non c'è problema. Cosa ti stavo dicendo, Anto? Comunque, perché di che anno è quella radio? Sicuramente questa qua è una radio semidigitale, quindi quando già stavamo passando, non è così vecchia come il 140, che poi, ti ripeto, è comunque, come sai benissimo, apprezzatissima. Ha fatto sicuramente il 140 più storia di quanto ne abbia fatto l'OT50, però, credo che sia una radio di 25 anni fa, non c'è Claudio, se no ci avrebbe confermato la data. Vabbè, quando si pensa bene, comunque le radio vanno sempre bene, dai. E quella va, che frequenza fa? E qua fa le stesse frequenze che fa il 140 e non ha i 6 metri, come non ce li ha il 140. Simile al 140 che fa i 6 metri c'è il 680 che è un 140 mascherato dove hanno messo la scheda dei 6 metri e basta. Buonasera a tutti. Buonasera anche a lei, un secondo solo. E a tu, comunque, vabbè, là, ti riempie l'occhio, vai, quando muro, ti riempie l'occhio. Ti capisco, avanti, bre. Salutone a tutti, Salvatore. Ciao, donna nazionale. Ho sentito che sei tu Gianni e Antonio, questa era spenta da un bel po' di tempo, e ne ho approfittato per fargli prendere un po' di corrente. Ciao Salvatore, un immenso piacere, io ti ascolto, dai, ti ascolto lo stesso, però non posso salutarti perché quando ti ho ascoltato 10-40 minuti, eccetera, eccetera, quindi non posso salutarti, però ti ascolto lo stesso, dai, sappilo. Salvatore, guarda che ti sento però un po' compresso, non so che cosa c'hai, ma sembri quasi fuori frequenza. È vero, mi hai rubato le parole di bocca. Allora, aspetta, sì, no, avevo lasciato il mic gain con il setup, così dovrebbe andare meglio. No, negativo. Negativo, negativo. Boh, non so. Sembri quasi in FM, quasi. Però è un vitro, anche. Ma non ho copiato, hai detto? Ho detto, non sarà il vitro da regolare. E il mic è troppo alto, così, vediamo un po' così. Vale qua. Ma no, il RIT, prova il RIT, guarda che forse sei fuori col RIT. Sento chiaro chiaro io, eh. No, il RIT non ce l'ho. No, no. No. Così? Va meglio? Adesso sì, cosa hai fatto? No, il mic, sto azzerando il mic del tutto, perché sto trasmettendo non con le cuffie, ma con... l'avevo praticamente dimenticata nel mobile, stavo facendo un po' di riordino nelle cose, ho detto, va, facciamogli prendere un po' di corrente anche a questo ogni tanto. Adesso è praticamente a ore 9, quindi è proprio quasi chiuso. Non sei al top della modulazione però, Cioè nel senso sei leggermente, sembra uguale, fuori frequenza. Dimmi, Gigi. Ciao Salvatore, ma io lo sento una meraviglia, come mai? Lo sento una meraviglia, Salvatore, proprio bello, chiaro, limpido come luglio. Ma c'è anche Gianni che lo sta sentendo così, se fosse stato un solo mio problema mi sarei preoccupato, ma anche Gianni lo sta sentendo un attimino papierinato, capito? Positivo, io l'ho ritirato oggi, ma l'ho fatto allineare bene questo. L'ho ritirato oggi. Infatti guarda, tu stai arrivando una bomboletta, sei un Santiago 9.5 con una radio di 5 perfetta, sei centrato perfettamente, 27.105.00. Sto dicendo che l'ho ritirato oggi, me l'ho fatto centrare bene, me l'ho fatto allineare bene, e se non l'ho ritirato oggi, però lo sento benissimo io a Salvatore, lo sento benissimo, proprio chiaro, chiaro, chiaro, non so come mai. Ciao Kai. Ciao carissimo, ben sentito. Ciao, Salvatore, ma adesso sei molto basso di radio, Ho passato il mic per questo, perché pensavo che stessi disturbando il mic. Prova a alzarlo di nuovo, rialzati un attimino, forse adesso l'hai migliorato, rialzati e ridati in potenza. Vedi, adesso sei saturo tu, Antonio, sei saturo tu adesso, e sei tu leggermente fuori, Leggermente fuori. risaperò tu in un certo momento. Questo qua lo sai che cos'è? Che mentre sta scaldando sta scaricando potenza, quindi sta salendo di potenza, è per quello che sto un attimino, mi sto togliendo potenza mentre sto modulando. Perché tu dovevi fare scaldare prima tu, poi entro. Non ricordo, un po' di 140, tanto sono 4 conversioni. Poi la potenza come la vuoi tu, lasciala stare, però non bisogno, non sale e scende come a 140, quello 4 conversioni. Allora come mai più sta scaldando e più sta, cioè gli devo diminuire la potenza? Non lo so, se hai qualcosa inserito, ma quello tu lo regoli a 30 watt di portante, un picco a 50 rimane stabile sia a caldo che a freddo, un 4 conversioni digitale, no? Non è come 140, devi stare regolando, è come il 440, 440 in 3 conversioni, tu lo metti a freddo a 50 watt, lo accendi a 50 watt, 140, lo metti a 50 watt a caldo, quando lo accendi ti va a 10 watt. Aspetta, però stava creando problemi, aspetta un attimo. Adesso è a 25 watt, guarda un attimino. 25 watt, piccolo punto di modulazione. 1, 2, 3, parlato 100, fischiato 150. Quindi viene bene, se non puoi darle una potenza troppo alta, legatamente ti va in protezione, non è che ti sta dando già la protezione perché è troppo alto, è un 4 conversioni, quello si allinea automaticamente come lo accendi. Infatti quando tu lo accendi hai visto che fa tic tic il relè, perché quello l'allineamento ti va sul display e poi si allinea automaticamente, ti dà anche l'attenuatore, cioè l'accordatore in ricezione. Vito, ciao Sparviero. Ciao chi è? Salvatore. Salvatore? È Stitcher. Salvatore, ti sento a livello proprio basso. Credo con poco. Poco, ecco, qualcosina in più, così va un po' meglio. Del radio, non ti sento del radio. Mi hanno detto che gli stavo dando fastidio, allora ho abbassato il mic. Diciamo che sarebbe stata un po' così il mic corretto, però a Gianni e ad Antonio gli stavo arrivando fastidioso. Boh, non so, se sono in cuffia io non ti sentivo la radio, così riesco a sentirti. Avanti già. E la parola sarebbe mai che viene, Salvatore, sei bassino. Dove è il volume qua, là? Cioè non riesco a trovarlo. Il volume? FRF. L'ultimo destra sopra il sintonizzatore in banda. Ditemi così, dai, l'ultimo passaggio che vado a cenare. Così va un po' meglio, così lascio settata così nel caso dopo rientro. Io lo sento malesino qua. Anch'io, però dico come tonalità, di come volume di voce sia adesso. Ok, allora lascio così, eh. Sicuramente è un po' raffreddato, Salvatore. Beh, io ho respiro sempre con una narice, figurati un pochettino, perché l'altra è plenamente tappata, poi è partita l'allergia e quindi se ne riparla in piena estate ad avere un tono senza essere nasito. Vabbè, vado a cenare. Ciao ragazzi, a dopo, buona serata a tutti e anche a quelli che stanno ascoltando. Ciao Salvatore, fate buona cena con tutti. Ciao Salvatore. Entro buona cena a tutti. Ciao Salvatore, no niente, adesso è tutto a posto. Ma come picco non deve superare i 150, questo mi stai dicendo? Alto, è alto, stabilisciti un minimo di portante muta, un minimo, perché c'hanno molti picchi con le radio, capito? Se poi tu vai a dargli un picco massimo, siccome lavora con un microprocessore automatico, ti va in protezione, capito? Quindi tu stabilisciti un minimo, 20 watt, 30 watt, e poi lo lasci lavorare sul picco di modulazione. Va molto meglio, molto più chiaro la radio, non ti crea problemi. così dovrebbe essere a 20. Picco 120, anzi modulazione arriva a 50-100, dai. Così va benissimo, va benissimo. Non ha cambiato per niente il segnale qua, non è che cambia, perché c'hai quel il modulatore che spinge. Va bene, va bene. L'hai trovato il volume? Sì, K, ma ti ripeto, non l'ho ancora guardata bene la radio. Molto bella, molto bella, molto soddisfatto. E sì, è un questo è un apparato, si vede, del tutto diverso, dai. Tu stai parlando di un quattro conversioni, io ce l'ho, lo uso, in AM non lo uso in banda laterale, però è ottimo anche perché c'ha tutti i filtri, sia in ricezione che in trasmissione, poi insomma tutto quello che vedi davanti funziona, è un centro memorie, c'ha tutto, c'ha tutto, c'ha tutto. La vita a prezzo è un'ottima, ottima radio, 140, lo sai, io sono cambodiano. Ho usato per anni, ma non vuoi paragonare a quello, un'altra massa gumba. Vabbè. Avanti, Gianni, fai girare. Bravo. Ragazzi, che pare che tocca a Gigi adesso, Gigi, avanti. Positivo, io stavo guardando il segnale di tutti quanti. Il più alto è leggermente il tuo, Gianni, e anche di quello di Claudio. Il più basso di tutti è quello di Antonio. E Antonio, l'importante bianca, mi fa un Santiago di 9, però i picchi vanno anche 9,10, 9,20 pure. Invece Claudio è quasi vicino al più, quasi a fianco al più, quando modula va sopra il più. Invece tu sei già l'importante fissa quasi sopra, sopra il più. La pizza, stavo controllando queste cose così, dai. Sì, vabbè, però sapete che ci sentiamo, io non è che non me lo fa peso queste cose. Comunque, Antonio, me lo devi far vedere quell'apparecchio, che lo voglio vedere. Non l'hai visto a me? Ecco, ne ho visto mille, non so quale sia. Quello era l'850, non era grande, quello è l'850, era che... Che bello, Antonio, con quello MC60 lo stai facendo andare? K Roger, sta andando con l'MC60. Anto, scusate, Anto, io sto uscendo con 4 watt, voglio dire, questo è tarato a 4 watt, da già là dentro, la me l'ha tarato a 4 watt. Tu mi puoi dare un segnale lì da te, un segnale da te? Sì, 995, radio 5, va benissimo. Ecco, come sei tu da me, però io ho sentito di parlare picchi di 100 watt da te poco fa, perché tu c'hai un Santiago, proprio da Santiago di 9, il tuo fisso di portate, quando moduli se ne va quasi a 9,20, quando moduli, ecco perché ti ho detto questa differenza, perché questo sono 4 watt di portate bianca, Capa di Roger, ma assolutamente, il problema di questa radio è che non la puoi neanche sforzare più di tanto in AM, perché non è fatta per andare su questa frequenza e su questo tipo di modulazione, quindi va più che bene così. Tu immaginati che a livello di potenza adesso sono esattamente a quant'è? Sono a 20 watt, la manopola della potenza è a 2, quindi prima di arrivare a 10 ce ne vuole, e la potenza del microfono è a 4. Potrei abbassare la potenza del microfono e scaricare più watt, ma ti ripeto, è tutto relativo, l'importante è arrivare bene, poi potrei anche farlo, ma e vediamo un attimino, dai. Abbassiamo a 4, a 2 il microfono, e adesso ampli un pochettino di potenza. Guarda se sta arrivando, 1, 2, 3, prova se si sta alzando il segnale. Allora, il segnale si è alzato di parecchio, ma si è abbassata la radio di parecchio, però. Però l'ha migliorata la radio. Sì, hai ragione, però posso, aspetta un attimino, eh. Sì, adesso ho anche accordato, adesso posso aumentare un attimino anche... Però non voglio strappare, guarda un pochettino, 1, 2, 3, prova. Così è perfetto. Va bene così, Anto, va bene. No, io ero un rapporto di segnale. perché ho detto, se tu stai uscendo con questi fatti, allora Gianni sta uscendo con più fatti di te, Claudio sta uscendo con più fatti, vabbè Claudio è in alto rispetto a me, e anche con più fatti mi arriva un po' il segnale Claudio, però Gianni per arrivarmi con questo segnalone forte, o stai dando, quanti fatti stai uscendo tu già? Adesso te lo dico, 30. 30 fatti, però forse tu sei più in alto d'Antonio, no? È più vicino a te, Luigi, è più vicino a te, ne abbiamo parlato mille volte. Dove Gianni è attaccato a voi, è un lato veloce, davanti al lato veloce. E Antonio è dalla parte mia, è molto, molto indietro, molto, molto, molto indietro. Non c'entrano niente queste cose. Beh, devi andare, infatti, magari tra quei varcoli. Positivo, dai, positivo. No, mi sembra che era più o meno anche in alto lui, Antonio, dai. No, era una cosa mia, mi chiamava, mentre io, cioè, lui mi ha detto c'è un segnalone a me, che io sto pilotando con 4 watt, ma ha detto che c'è un segnalone da lui, Antonio, io sentivo poco fa i picchi di 50, 70, quasi 100, io venendo i segnali, no, che è quello che ti volevo dire. Ma c'è qualcosa? Aspetta un attimo. Adesso sono con 10 watt e il microfono l'ho messo a 4, dai. E cioè qualcosa sotto ti stai portando lì, come se qualcuno ti stesse mettendo sotto la portante, non so se lo senti anche tu là. Non c'è la portante, no, non c'è qualcuno, c'è una portante quando parla dici. Non lo mettere sotto 10 watt, tanto, non lo mettere sotto 10 watt, quello c'ha due finali da 100 watt, quindi puoi usufruire tranquillamente di 20-30 watt di portante muta e il resto fare lavorare il microprocessore. Sì, c'è una portante, non lo so. Eccolo così. Scusate. La senti come portante, io la rilevo, Sì, sì, sì, già c'è. Lo vedi. Scappa, ma sembra qualcuno in banda, dove è? Aspetta un attimo. Allontanando e vado un attimino nell'altro QTH a fare carica batteria. Ci sentiamo le prossime, se mi aspettate una ventina di minuti ci riprendo sul canale 10. Ciao Gianni, non so se hai fatto buona carica batteria, che in caso buona a te, a Gigi e a Claudio. Fra 20 minuti circa dovrei riprendere. Io non ho capito Eugenio, allora Eugenio aveva chiuso, dai. Riprendete e ci sentiamo alle prossime. Grazie per i controlli. No, lo prendo io, ti saluto, anche buona carica, sentiamo su 10, avanti qua. Tanto ci siamo. Tanto, fra, dopo non so io, vedrò tra le persone, signora. Sento anche un pochettino, guarda se c'è questa cosa sotto, ma io non sia questo barattino. Papà, accendi, oh qua, se ci sei, accendi il monitor che c'ho il portatile. No, ma sotto su 10 o no? Sono già su 10, non ho un problema. Vado qua, ma sto già ascoltando su 10. Aiuto!